Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati in ascolto di Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata lo stato di emergenza per la siccità, le nuove disposizioni in arrivo per le cooperative di comunità, la riforma degli enti locali e tanto altro. La Regione ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la siccità. La grave crisi idrica in atto ha determinato serie conseguenze sulle risorse potabili, quelle per l'irrigazione ma anche per la produzione di energia idroelettrica. Il Po, grande malato di questa torrida estate, ha bisogno di azioni coordinate e il rilascio di acque provenienti dai grandi laghi a nord. Intanto l'Emilia Romagna si dispone ad affrontare la situazione con diverse misure, mentre sale a circa 37 milioni di euro la stima delle risorse necessarie. Lo ha riferito ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sicurezza territoriale Irene Priolo. Abbiamo messo insieme tutti quelli che sono gli elementi necessari per affrontare lo stato di emergenza, tra cui la possibilità, diciamo, di fare interventi urgenti per l'approvvigionamento idropotabile. Tra questi c'è l'installazione di pompe idrovore, c'è la possibilità di fare dei pozzi in alveo e c'è anche la disponibilità di mettere delle autobotti per l'approvvigionamento per i cittadini, questo soprattutto nell'Appennino parmense. Gli interventi annunciati in aula dalla Giunta regionale sono stati oggetto del dibattito in Assemblea Legislativa, che ha infine approvato a maggioranza, senza l'appoggio di Europa Verde, una risoluzione presentata dal Partito Democratico. Sentiamo in proposito Marco Fabbri, primo firmatario. Abbiamo chiesto un impegno sia in termini di investimenti, inteso come quegli interventi, quelle opere che sono in un qualche modo già state preventivate, avviate, ma che necessitano di essere sburocratizzate in un qualche modo, non soltanto questo, ma anche di valutare la realizzazione di nuovi invasi, ma soprattutto interventi puntuali sulla razionalizzazione dell'acqua, perché sappiamo che le perdite sono molto cospicue. È stata invece respinta dall'Aula un'altra risoluzione avanzata dalla Lega, che invita a non adottare un approccio ideologico per individuare le soluzioni. Ascoltiamo il capogruppo Matteo Rancan. Oggi serve uscire dall'ideologia. Abbiamo presentato una risoluzione, un ordine del giorno per chiedere cose chiare per i nostri agricoltori, per i nostri cittadini e per i nostri anche tutti quelli che sono i produttori per la trasformazione, per esempio, del pomodoro. Servono dighe e invasi e un ricalcolo del deflusso minimo vitale. Il nuovo piano di tutela delle acque in Emilia-Romagna si baserà su tre cardini: più capacità di stoccaggio, meno perdite di rete e riutilizzo della risorsa idrica depurata. Lo ha ribadito l'assessora regionale Irene Priolo nella relazione sull'emergenza siccità tenuta in Assemblea Legislativa. Nel dibattito che ne è seguito, i gruppi dall'anima ecologista sottolineano l'urgenza di intervenire per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e avanzano proposte per la salvaguardia e gestione delle acque. Ecco le dichiarazioni di Silvia Zamboni di Europa Verde e Igor Taruffi di Emilia Romagna Coraggiosa. Le priorità per Europa Verde sono uso razionale dell'acqua, quindi ridurre gli sprechi in agricoltura dove si usano appunto sistemi di irrigazione a pioggia, ma sostituire anche delle coltivazioni come mais e kiwi che sono particolarmente idroesigenti. Nelle abitazioni civili cercare di fare il recupero dell'acqua piovana per gli usi sanitari e in genere bisogna intervenire sugli acquedotti perché sappiamo che ci sono delle perdite che da sole ci costano il 40% dell'acqua che trasportano. Abbiamo acquedotti che perdono dal 35 al 40% della fonte, appunto, dell'acqua. Bisogna intervenire su questo e bisogna anche prevedere magari piccoli invasi per le aziende, ma soprattutto quello che dobbiamo fare è modificare evidentemente l'utilizzo dell'acqua sia negli usi civili che anche negli usi in agricoltura. Intanto le opere previste tra piano invasi e PNRR accresceranno di 75 milioni di metri cubi la disponibilità d'acqua. Ma dalle opposizioni arrivano critiche sulle carenze di una programmazione che farebbe scontare la situazione attuale, in particolare per quel che riguarda la creazione di grandi invasi soprattutto in Emilia. Ecco le precisazioni di Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d'Italia e di Marco Mastacchi di Rete Civica. Sono 20 anni che giriamo intorno a queste problematiche e 20 anni che praticamente la regione, un po' paralizzata anche dal finto ecologismo dei presunti verdi, è praticamente in un pantano di decisioni. Abbiamo chiesto all'assessore Priolo di uscire dalla logica dell'emergenza e di entrare nella logica della gestione della pianificazione, quindi con la realizzazione di interventi come grandi invasi e anche piccoli invasi sul territorio. Di diverso avviso Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle. Oggi dobbiamo fare quello che il nostro paese non ha fatto da vent'anni a questa parte, ovvero costruire piccoli invasi per aumentare la captazione dell'acqua e al contempo produrre anche energia elettrica. Sempre in tema di cambiamenti climatici e delle ripercussioni sull'ambiente, Valentina Castaldini di Forza Italia ha presentato un question time a partire dalla frana recentemente verificatasi nel bolognese, a Zola Predosa. Ci vogliono investimenti, ci vuole visione, non ci vuole solo la prontezza di risolvere, ma anche quella di programmare e progettare. Il PNRR, da questo punto di vista, per la Regione Emilia-Romagna su questi temi è stato fino ad oggi una delusione, non siamo riusciti ad avere finanziamenti. Emissioni inquinanti e depauperamento dell'ambiente. Giulia Gibertoni del gruppo Misto, durante il question time, ha puntato il dito contro l'uso del carburante da biomasse, in particolare quelle di origine forestale. Sentiamola. Mi ha raggiunto un presidio importante di cittadini, molto contrariato dalla risposta della Regione, che invece non sente ragioni e intende continuare a incentivare le biomasse, la combustione delle biomasse, quindi a togliere ai cittadini clima, salute e sborsi economici con gli incentivi pubblici. E adesso parliamo di cooperative e di comunità. La Commissione Politiche Economiche è al lavoro su un progetto di legge dedicato a questa forma cooperativistica in cui singoli cittadini, imprese e associazioni si organizzano e mettono in relazione le loro attività per rispondere alle esigenze di una comunità, ad esempio in montagna. E proprio in Appennino, nel Reggiano, la Commissione presieduta da Manuela Rontini si è recata per conoscere da vicino alcune realtà rappresentative. Sentiamo Rontini. Il progetto di legge che si dà l'obiettivo di promuovere e sostenere queste esperienze che soprattutto nelle aree montane, nei territori marginali delle aree interne, nelle zone più fragili, hanno messo insieme esperienze, hanno messo insieme competenze per dare risposte e servizi alla comunità laddove le istituzioni, gli enti pubblici da soli non ce l'avrebbero fatta. Le cooperative di comunità sono spesso indicate come uno strumento per fare economia con modalità innovative in territori svantaggiati dove offrono attività e servizi utili a contrastare lo spopolamento e sviluppare nuove opportunità. A Succiso Nuovo, frazione di Ventaso, c'è la Valle dei Cavalieri, nata nel 1991 quando i ragazzi della locale Proloco si sono rimboccati le maniche e hanno costituito la cooperativa per gestire l'ultimo bar del paese e l'unica bottega. C'è poi la Corte di Rigoso, che porta il nome del piccolo borgo reggiano, un'impresa che ha sfidato il Covid. È tempo di riforma per gli enti locali, a 8 anni dalla legge Delrio, che ha ridisegnato le province e istituito le città metropolitane. Se ne è discusso in assemblea legislativa in un seminario promosso dalla Consulta di Garanzia Statutaria. Ecco le parole della Presidente Chiara Bologna. La complessità di questo tema è stata affrontata mettendo intorno allo stesso tavolo tanto gli studiosi delle istituzioni, degli enti locali, quanto i protagonisti dei vari livelli, comuni, province, città metropolitane e regione. Questo credo sia stato il valore aggiunto di questa giornata. Venuto meno a seguito del referendum costituzionale del 2016, il progetto di riforma che prevedeva la soppressione delle province, si è aperto il dibattito sull'opportunità di un nuovo intervento legislativo attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri. Una riforma che a livello regionale impegnerà sul piano normativo anche l'Assemblea legislativa. Ascoltiamo la Presidente Emma Petitti. Noi vogliamo un confronto, ovviamente di merito, con gli esperti, con la consulta come è avvenuto oggi, ma con i nostri stessi territori, con le nostre autonomie locali, con i nostri sindaci, perché riteniamo che il principio di sussidiarietà, di condivisione, di partecipazione sia fondamentale per riformare e rendere sempre più efficiente il nostro paese. Sempre guardando alla necessità dei territori, in un question time Stefania Bondavalli della lista Bonaccini ha portato all'attenzione della Giunta le richieste di molti comuni affinché siano finanziati i progetti di ristrutturazione degli impianti sportivi con risorse aggiuntive a quelle già stanziate nell'ultimo bando regionale. Sentiamo cosa ha dichiarato la consigliera. La Giunta ha confermato l'impegno di trovare nuove risorse, anche più corpose, proprio per far fronte a questa esigenza oggettiva delle nostre amministrazioni. Questa era l'ultima notizia. Per rimanere informati sulle attività dell'Assemblea legislativa, seguiteci anche sui profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu. Assemblea on air.